Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E tantissima MotoGP. Allora, i contatti 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta, 349 238 6666, per SMS e WhatsApp. Saluto subito Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Ciao, ciao. Oggi partiamo dai motori, poi abbiamo tanto calcio, però cominciamo a raccontare questi ultimi tre giri della MotoGP pazzeschi. Fuori sì. Marquez, l'abbiamo detto nel GR, ha rotto il motore. Dovizioso, Vignales, Rossi, Crutchlow e Lorenzo. Questi primi cinque, perché nel tempo della pubblicità Valentino Rossi ha leggermente ceduto, no Roberto? Sì, sì, il quesito è la gomma posteriore, se sta un po' cedendo, ma Dovizioso grande, perché l'ha studiato, ha cercato il punto giusto, è passato di motore, quindi grande Ducati anche qui, su una pista dove non ha mai vinto, quindi potrebbe essere la prima volta. Aspettiamo due giri al termine, pista lunga, quindi i giri sono pochi rispetto al solito. Intanto Vignales è passato davanti a Valentino, secondo in questo momento lo spagnolo, vale, ha condotto tutta la gara e in un giro e mezzo è passato terzo. Allora, Dovizioso, la classifica in questo momento sarebbe Dovizioso 183 punti, poi Marquez 174 e poi Vignales 170 e Valentino Rossi 157, ma Rossi che è attaccato ancora alla moto del compagno di scuderia Vignales, e quindi dobbiamo aspettarci qualcosa in questi ultimi due giri. Ho l'impressione invece che Dovizioso se ne vada. Sì, può far la fuga adesso, perché comunque è sotto controllo, riesce, è staccato di qualche metro, anche se Vignales è sempre pericoloso. Attenzione anche Crutchlow, perché è quarto ma è attaccato a Valentino e il podio di Valentino è a rischio. Crutchlow su questa pista molto forte. Intanto Vale ci prova di nuovo, traiettorie diverse con Vignales, stanno combattendo, di questo ne approfitta sicuramente Dovizioso là davanti, perché è indisturbato. Le due Yamaha cercano tra di loro il sorpasso, potrebbe favorire una fuga ancora più facile di Dovizioso. Ancora due giri e il Dovi comunque grande motore sul rettilineo della Ducati, ma abbiamo visto un Dovizioso comunque crederci fin dall'inizio, abbiamo detto che è cambiato. Sì, l'abbiamo visto anche duellare con Marquez, molto, così molto, come ha fatto nell'ultima occasione. Abbiamo visto stendersi anche qualche curva fa due italiani, Petrucci e Iannone, ma quasi non fa più notizia. Siamo quasi nell'ultimo giro. La notizia ovviamente è Marquez che rompe il motore della sua Honda. Poi avremo avremo modo di approfondire tutto. Io lo dico agli amici, perché poi parleremo della Formula 1 che abbiamo visto oggi in pista Spa, e anche lì ci sono buone notizie per i colori italiani, per la nostra Ferrari. Poi torneremo ancora a parlare della MotoGP. Siamo nell'ultimo giro. Dovizioso ha 581 millesimi di vantaggio su Vignales, che ha Valentino Rossi molto vicino. Attenzione però, perché molto vicino a Valentino Rossi c'è anche Crutchlow, e quindi io credo possiamo anche immaginare, ipotizzare che ci sia una volata finale per i due posti sul podio dietro a Dovizioso. Sì, è una bella battaglia per il podio, mentre il Dovi dovrebbe non avere problemi, perché ha allungato e ha la gara sotto controllo, dovrebbe riuscire a farlo, non facilmente, perché non si può mai dire fino alla bandiera a scacchi. Interessante il secondo gradino del podio, Vale in questo momento ha perso un attimino rispetto a Vignales, ha anche mancato un po' l'appoggio nella percorrenza, si stanno sgranando e rimane così Dovizioso da Vignales. 357 millesimi per Dovizioso su Vignales, che sta girando leggermente meglio in quest'ultimo giro rispetto a Dovizioso. Rossi si è un po' staccato, si è staccato anche Crutchlow, dunque Rossi andrebbe a prendersi 16 punti del terzo posto del podio. Vignales ne prenderebbe 20, 25 ne prenderebbe Dovizioso, che ripetiamo ne avrebbe in questo modo 9 di vantaggio in classifica mondiale su Marquez. Dopo cercheremo di capire quale può essere l'impatto di questa gara. Siamo a tre curve dalla fine. Comunque ci prova Vignales, si è ravvicinato un attimo, ha conquistato qualche metro, però attenzione perché le linee. È andato lungo Dovizioso, ha sbagliato la terz'ultima curva. Ricordiamoci che qui settore finale è sempre andato fortissimo, ha vinto l'anno scorso, ma anche in Moto2 e Moto3 è stato protagonista, ma Dovi ce la fa. Siamo sul rettilineo, vince Dovizioso, secondo Vignales, terzo Valentino Rossi, quarto Crutchlow. Quinto Lorenzo, Marquez fuori a 8 giri dalla conclusione nella classifica mondiale. In testa adesso c'è Dovizioso con 9 punti su Marquez. Roberto, ancora un quarto d'ora, ti richiamiamo, abbiamo tutto il commento di questa straordinaria giornata di Silverstone per la Ducati, per Dovizioso, ma anche per Valentino Rossi. Grazie Roberto, e adesso Formula 1. Vuole il giro veloce, fa il miglior tempo assoluto nel settore centrale, non si accontenta, e questo è l'animale che viene fuori, non accontentarsi mai, anche se la vittoria è ormai vicina. L'ultima curva e poi Lewis Hamilton va sul traguardo. Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Belgio, lì dietro, sempre presente nei suoi specchietti fin dalla partenza, Sebastian Vettel in seconda posizione, leader del mondiale, terza posizione, applausi per Daniel Ricciardo, quarta posizione per Kimi Raikkonen, che ha pagato quella penalità per non aver rispettato le bandiere gialle. Arrivavamo per essere i non favoriti, ma abbiamo dimostrato, tutti i ragazzi, la macchina ha dimostrato di essere molto buona su un circuito dove tutti dicevano che non eravamo i favoriti. Peccato per Kimi, che ha avuto un po' di problemi con le vibrazioni, però ha fatto un grandissimo sorpasso nella ripartenza. Sebastian ha guidato molto bene, anche lì ci è mancato pochissimo. Questa è un'ottima macchina e tutti, dai piloti alla squadra, tutti quanti siamo impegnati a andare a Monza e far bella figura. Ragazzi, che pomeriggio, io ho ancora i brividi per la vittoria di Dovizioso nella MotoGP 800 24 00 24, perché mare intervenire in diretta fino alle 18:45. Oggi siamo in onda fino alle 18:45, oppure 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp. Saluto il maestro Giorgio Perruzzi. Ciao Giorgio. Buongiorno a tutti. Allora, proviamo a mettere ordine ai brividi di questa domenica pomeriggio. Di Dovizioso poi parliamo, anche se a questo punto io credo che la rossa delle due ruote sia assolutamente in corsa per il mondiale. È inutile continuare a dire che non è così. Ma non solo, è in testa al mondiale Dovizioso. È proprio una. Sì, ma non, per caso. Di... Non per no, caso. No, ma io credo che proprio quello che ha dato negli anni scorsi in termini di testa, io credo che questo ragazzo qui sia uno dei più intelligenti e più lucidi analisti della corsa durante. Però aveva sempre una sorta di. Quasi di timore da maltrattamento della moto, di se stesso, dalla qualcosa che sembra proprio liberato, e sono proprio contento, perché è una persona di qualità, è un ragazzo molto in gamba, secondo me, sono proprio felice per lui, bravo. E invece della Ferrari cosa mi dici? Io credo bicchiere mezzo pieno, anche se c'è chi è deluso del fatto che Hamilton sia partito prima, sia arrivato primo, di fatto non abbia mai davvero sofferto, se non al momento della partenza e al momento della ripartenza dopo la safety car, una decina di giri dalla fine. Io però credo, e poi insomma abbiamo sentito anche Arriva Bene, lo conferma, che questa fosse una pista particolarmente temuta e la Ferrari è lì vicina. No, io penso che sia un bicchiere più pieno di metà, nel senso che è raro vedere due piloti fare una gara di quella qualità qui, cioè sono partiti a un secondo e qualcosa di margine, hanno fatto 44 giri di straordinaria qualità di guida entrambi, quindi secondo me una bellissima gara, anche se all'apparenza noiosa, nel senso che non ci sono stati sorpassi, però tirata, bravi tutte e due, hanno fatto una garona secondo me, Vettel per il suo. Poi non passi con queste macchine qui, anche se c'hai un pelo più di passo, un pelo più di roba, di ciccia, non passi, perché sono macchine che impedì. Purtroppo qui il problema di questo regolamento tecnico è quello che è, cioè non, per passare un altro devi avere un missile terra-aria. Quindi il fatto di aver avuto due piloti così vicini per così tanti giri su una pista come questa qui, beh, insomma, un bello spettacolo di guida. Sì, scrive un amico, la Mercedes come auto è più veloce della Ferrari, se Vettel non fa lo spericolato come faceva Alonso non c'è strategia per annullare il gap, però ma può no, anche bastare la strategia dei piccoli passi. Sì, Sì, ma sai, spericolato come? Cioè, se tu c'hai una macchina che non ha oggettivamente lo spunto per superare, poi davanti c'hai Hamilton, mica un ragazzino che non sa cosa fare, no? Hamilton ha tenuto dietro Vettel. Sì, credo che valgano gli occhi che aveva, stravolti dalla tensione. Sì, stravolti dalla tensione, dalla concentrazione, con due ripartenze, primo giro e poi dopo la ripartenza del prossimo safety car, senza DRS, perché entrambe le occasioni, quando Vettel era vicino, non ha potuto usarlo. Cioè non puoi fare più di tanto, poi fai lo spericolato e vai fuori, ti danno addosso tutti. Io non sono uno che difende Vettel tutta la vita, anzi, però insomma oggi ha fatto una gran corsa, secondo me, secondo con quella macchina che ha, che pure forse è lì con la Mercedes. Ormai si sa, che abbiamo capito, che queste macchine si equivalgono, ci sono dei minimi vantaggi su una pista, poi su un'altra, vantaggio dell'uno, vantaggio dell'altro, però insomma sono lì. Pagheranno gli errori, sarà un anno in cui il primo che sbaglia perde, secondo me. E bisogna vedere chi sarà capace di tenere anche i nervi saldi. Grazie Giorgio. A voi, buon lavoro. Grazie a Giorgio Terruzzi, abbiamo il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, i nostri contatti 800 24 00 24, per chiamare in diretta. A proposito, dopo le 17.30 arriva Pierluigi Pardo, parliamo anche di quello che è successo ieri sui campi della Serie A e prepariamo quello che succederà questa sera. Dopo le 18, ve lo dico, apriamo un'ampia pagina dedicata al VAR, vi faremo sentire l'incredibile sfogo di Buffon, che io in gran parte condivido. Voglio sapere cosa ne pensate voi. Io penso che il VAR vada salvato, ma il modo sbagliato per salvarlo e dire che è tutto perfetto per come è stato usato in queste due settimane. Quindi insomma, se volete vi aspetto 800 24 00 24. Adesso però cerco di togliermi dalla pelle le emozioni incredibili di questo pomeriggio di motori. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ciao direttore. Ciao, l'emozione viene sulle due ruote, l'emozione è stata straordinaria. Sì. Della Spa, guarda, abbiamo scoperto un campione in questo Gran Premio, che in tutto il mondiale di Formula 1, credo. Sì, però questa ormai è una costante, ma questa ormai è una vecchia costante, e non necessariamente significa che la Formula 1 sia noiosa. Parlavamo prima con Giorgio Terruzzi, è stata una gara piena di contenuti di altissimo livello, dove purtroppo per sorpassare devi rischiare la vita come i due della Force India, o sperare che quello davanti faccia un errore come Bottas. Se no, su una pista come quella di oggi, con due macchine praticamente identiche, il sorpasso era vietato. Dall'altra parte, invece, da Silverstone ci è arrivata la conferma di quello che avevamo visto in Austria, cioè questo Dovizioso ha tirato fuori gli attributi. Questo Dovizioso non è più uno che si accontenta, è un pilota che ha visto là davanti il rosso del titolo mondiale, con un toro sta cercando di caricarlo alla grandissima, e lo abbiamo visto nel duello ravvicinato con Marquez due volte, lo ha sorpassato, ha subito sorpasso ma non ha aspettato e lo ha risorpassato. Con Vinales è stata la stessa cosa, poi con Valentino è stata fin troppo facile, perché Valentino ormai non aveva più con le gomme, però questo è un pilota diverso da quello che abbiamo visto fino a tre Gran Premio. Sei d'accordo con Arrivabene invece, che giudica il bicchiere della Ferrari mezzo pieno? Sì, io lo giudico anch'io, il mio commento che ho fatto sul web della Gazzetta l'ho giudicata quasi una mezza vittoria, perché da Spa si temeva una doppietta Mercedes. Dopo le prove di venerdì il timore c'era ancora, e invece Vettel è stato molto vicino in qualifica e in gara ha girato coi tempi della Mercedes, quindi anche su una pista decisamente pro Mercedes, decisamente veloce, la Ferrari ha accorciato le distanze. Io credo che Silverstone non si ripeterà, e quindi la Ferrari adesso ha le armi per poter combattere fino alla fine del campionato con la Mercedes, magari andando a sfruttare quelle che sono le piste a lei favorevoli. A patto che tutto poi si risolva semplicemente in pista. Abbiamo letto insomma la guerra dell'olio che rischia di penalizzare la Ferrari. Io trovo incredibile, ma la Formula 1 ci ha abituato. la Formula 1 ci ha abituato a fare dei pasticci tecnici dei regolamenti, e questo sembra essere un pasticcio. Io spero che si arrivi a mettere una pezza e quindi a far andare in pista dei motori tutti con lo stesso regolamento, non perché la Mercedes ha fatto la furbata, avallare questa furbata. Anche se poi devo dirti che io mi aspettavo dallo stesso Mercedes cosa in più, invece la Mercedes non è volata via in questo Gran Premio, per cui vediamo e speriamo che non sia un qualcosa di tecnico sfuggito ai controlli della federazione a decidere questo mondiale, perché invece il duello mi sembra molto, molto interessante. Sì, sarebbe davvero un peccato. Volevo sapere se reputi la mossa di aver anticipato di fatto l'annuncio del rinnovo di Vettel nella settimana dell'annuncio della conferma di Raikkonen come una mossa per dare tranquillità, stabilità per questa volata, e quindi una mossa giusta, anche se si rischia magari di perdere qualche occasione di mercato. Sì, era la mossa giusta da fare, confermare tutte e due. Io credo che purtroppo in questo momento non c'è un compagno di squadra di Vettel superiore a Raikkonen, anche se oggi Raikkonen ha deluso, però era importante, io dico, confermare Vettel non per un anno solo come si è temuto quest'inverno, arrivare invece ad avere tre anni addirittura di contratto vuol dire raddoppiare la vita in rosso di Seb, e quindi significa che lui crede nel progetto Ferrari. E questo è comunque un passo importante. Vuol dire anche rompere un po' le uova nel paniere di Hamilton, che forse pensava a fine di contratto a Mercedes, a fine dell'anno prossimo, di poter arrivare in Ferrari e concludere in rosso la sua carriera. Però a questo punto io credo che sia anche giusto così. Mi sarebbe piaciuto provare con un giovane accanto a Vettel, andare a provare qualcuno che possa rappresentare il futuro Ferrari, ma forse con il mondiale ancora così aperto era giusto lasciare tranquillo Seb anche in prospettiva futura, e forse anche questo lo ha convinto poi a firmare, perché vuol dire che la Ferrari lo sta a sentire fino in fondo. Oh, intanto risaluto Roberto Ungaro, ciao Roberto. Ciao Giovanni, ben ritrovati a tutti. Lascio Umberto Zappelloni con questa domanda bruciante. Domani sulla prima della Gazzetta troviamo più spazio per Dovizioso, per la Ferrari, per Milan e Napoli o per il VAR? Milan e Napoli dobbiamo decidere, il VAR vediamo se combineranno i pasticci di ieri. Dovizioso sicuramente in questo momento ti posso dire che batterà lo spazio che avrà la Ferrari, il resto si costruirà partite giocando, insomma. Grazie direttore. Ciao, grazie a voi. Grazie a Umberto Zappelloni. Allora vi rilego la classifica mondiale. Dovizioso 183, Marquez 174, Vignale 670, Valentino Rossi 157, frutto della vittoria di Dovizioso a Silverstone davanti a Vignales, Rossi, Crutchlow e Lorenzo, del ritiro di Marquez a 8 giri alla fine per il KO tecnico del suo motore. Roberto Ungaro, io la dico, ho l'impressione che Dovizioso avrebbe vinto comunque. Allora, il Marquez di oggi in gara non è il Marquez che conosciamo, ha girato molto più forte in prova, era in palla, e in gara invece non era lui. Valentino comunque ha fatto un gran capolavoro fino a 3 giri al termine, poi ha avuto un problema di gomma, ha dovuto mollare un po'. C'è da capire che senza quel problema di gomma lì, se Dovizioso fosse riuscito ad arrivargli sotto, perché Valentino è stato un martello, ripeto, fino a 3 giri dal termine, bravissimo. Sì, però dato che insomma, ma Valentino Rossi l'aveva detto ieri, io temo l'ultima parte della gara. È stato pessimista, molto più della realtà. È stato realista, secondo me. Ripreso, ma un po' troppo. Secondo me sta giocando un po' di strategia, dice ma che perché? No, siamo da mondiale. Ma perché lui è bravo e furbo, e quindi quando farà magari il colpaccio riuscirà a essere ancora lì, sarà ancora più eclatante. Secondo me fa parte della sua proprio strategia, del fatto di essere una vecchia volpe. Infatti c'è un po' di attrito tra lui e Vignales, perché Vignales dice no, non abbiamo una moto così non competitiva, possiamo ancora dire la nostra, no? E comunque c'è appena stata la dichiarazione di Dovi, è incredibile perché quanto è stato onesto. Lui ha detto io non avevo la moto più veloce oggi, però ho portato la moto davanti a tutti, e questo sono molto contento di questo. E dobbiamo veramente confermare il fatto che Dovizioso è cambiato, si è sbloccato, è un altro pilota rispetto a quello che conoscevamo, è battagliero, cerca il confronto e resiste nel confronto, risponde, cose che non ha mai fatto, è sempre stato preciso, è sempre stato lucido, è veramente un grande stratega, ma non ha mai osato. Adesso invece è un pilota completo e si vede che la situazione, la Ducati di oggi, gli consente di farlo. Il fatto di avere un compagno di squadra come Org, che guadagna, lo sappiamo bene, ben molto più di lui, tutta una situazione. Comunque bravi anche Ducati, perché riescono a gestire le gomme, la moto è molto più agile, non è più non c'è più questa grande differenza a livello di motore. È sempre importante il motore Ducati, e anche oggi l'ha passato sul dritto rispetto alla Yamaha, a Valentino, anche se ha fatto una bella traiettoria interna. Quindi Ducati è sempre comunque molto competitiva, ma non più come l'anno scorso c'è una differenza pazzesca, quest'anno no. Quindi è un insieme di cose, una moto molto più bilanciata, che riesce a mettere i cavalli per terra, con un pilota che ha creduto di più in se stesso, si è sbloccato, ed ecco questo che risultato. Dà regolarmente la paga al compagno, che è un certo Jorge Lorenzo. Esatto, ma qui sono il primo a dire che non avrei scommesso un euro su Dovizioso mondiale, e non rinnego quello che ho detto. Quindi è uno stupore per me vedere un Dovizioso davanti in campionato. Certo, è un dispiacere vedere un Mark che si ritira per il motore, perché non è per merito suo, quindi non è una caduta, non è uno sbaglio, e vedere una Honda che si rompe, ripeto, l'ho detto anche prima, è anni che non accade. Ma da quando hai la data? Non ce l'ho, esatto. Non se ne ha memoria. Secondo me qualche tecnico giapponese mi sa che non rientra in Giappone da questa trasferta. Guarda che per i giapponesi rompere un motore è qualcosa di inaccettabile, karakiri assolutamente. Però insomma vedremo a Misano, perché adesso 9 punti Dovizioso davanti su Marquez, giusto? Facendo i calcoli. 9 punti, 183, 174, con Vignale si è attaccato di fatto, perché esatto. Ne ha 170. E Valentino Rossi, che è un po' più vicino rispetto ai 33 punti che aveva dalla vetta della classifica prima di questa gara, i punti adesso sono 27, è cambiato il leader. Scrive un amico: niente da fare per Rossi, la MotoGP non è per gli over 30, si perdono 5 millesimi al giro e non ci puoi fare nulla. E non escluderei ancora Vale dal mondiale. Ricordiamoci che ci sono 6 gare con 25 punti a gara in ballo, ce n'è di punti a disposizione. Poi c'è il mini campionato a parte, le 3 trasferte oltreoceano, che sono un campionato a sé. Cioè, secondo me anche lui è ancora della partita, è presto per dire escluso dai giochi. Grazie Roberto, a domani. A te Giovanni, a domani, un saluto a tutti. Grazie Roberto Ungaro, domani torniamo dopo le 14 con tutti i convocati, ovviamente ampia pagina dedicata ai motori. Ci dobbiamo fermare, prima però vi voglio far sentire un pezzettino dello sfogo di Buffon ieri sul VAR dopo le 18, grande spazio, se volete chiamate 800 24 00 24 e voglio sapere che cosa ne pensate voi, se il VAR visto in queste prime 2 settimane debba essere difeso o criticato come ha fatto Buffon. Non lo puoi, secondo me, adoperare per ogni contatto. Io oggi sinceramente dalla porta non avrei fischiato né il rigore loro e neanche il nostro, nessuno dei due. Che poi uno può dire sì, c'erano tutte e due, sì c'erano, ma nel fantacalcio, cioè nel calcio da laboratorio, nel calcio vero, non sono rigori. Tutti convocati. Fiera del Levante, riscaldamento a legna e pellet, pftecnologie.it vi presenta. Tutti convocati. Higuain, largo Dybala, controlla, può rientrare sul sinistro, che va a cercare e a trovare il gol del 4-2, Paulo Dybala, tripletta! Tripletta! Partiamo dal pallone, dove andrà questo pallone? A casa, sicuramente lo lascerò a casa mia perché è il primo qua in Europa. In Italia? Sicuramente giocare con il numero 10 non è facile, perché sei esposto sempre alle critiche se non fai bene, però se fai bene poi le critiche sono sempre positive. Sono contento di quello che sto facendo al di là del numero. Si è mangiato su di lui, tocco dentro, Icardi! 2-1 Inter! Icardi! La cambia lui! La cambia il vero 9! È tirato fuori da Higuain l'Inter in un momento difficilissimo. No, eroe no, abbiamo fatto tutti un grande secondo tempo. Un ottimo segnale, perché adesso abbiamo la sosta, ci dobbiamo preparare bene per la prossima, che giochiamo in casa. E abbiamo fatto una grandissima prestazione oggi. Una sosta non male per te la sei ripresa questa Argentina. Sì, ormai erano 4 anni che aspettavo questa occasione, è arrivata adesso, sono contento. E ieri è stato il sabato degli argentini, Dybala, Icardi, tripletta Dybala, doppietta Icardi, due vittorie pesanti fuori casa per Juventus e Inter. Il tema del VAR lo abbiamo lanciato, vi aspetto dopo le 18, 800 24 0024. Faccio pacchetto unico, saluto per Luigi Pardo, ciao Pier. Ciao. E Riccardo Ferri, ciao Riccardo. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Allora, ciao. Io ve la butto lì perché su Twitter abbiamo un po' giocato questo pomeriggio con Claudia Schiattone e abbiamo chiesto ai nostri amici, prendetene uno, chi preferite, Dybala o Icardi? Allora, tanti juventini si prendono Dybala tutta la vita, ma c'è anche chi dice che uno come Icardi, che tocca due palloni, fa due gol, è irrinunciabile. E insomma le quotazioni di Icardi stanno salendo, io non lo so, è un meraviglioso duello, è il più fortunato di tutti è Sampaoli, no? Esatto. Che può permettersi, infatti, di farli giocare insieme. Infatti io me li prendo tutti e due, contravengo alle regole subito, me li prendo tutti e due. Io penso che Icardi sarà il capocannoniere di questo campionato, ho lanciato questa profezia che ovviamente non si verificherà perché non è becco una, insomma. Però occhio e croce, l'ho detto la settimana scorsa, per me Icardi è affascinante per caratteristiche, che dovrebbe fare più gol. Dybala ha un talento che è ancora superiore, ovviamente sono due giocatori diversi, nel senso che uno è più un numero 10 e l'altro è più un numero 9, sono una coppia fantastica, non saprei veramente chi scegliere. Tu che ti pigli, Riccardo? No, beh, io anch'io li prenderei tutte e due. Vabbè, ho capito, ma è così. È chiaro che se parliamo di una certezza, sicuramente vado su Icardi, perché è indubbio che in questi ultimi anni, nonostante l'Inter non avesse fatto bene, comunque l'appuntamento col gol è sempre presente, quindi ha una percentuale realizzativa altissima per i palloni giocati, quindi è un giocatore che incarna veramente l'attaccante, ma neanche moderno, tra il moderno e l'antico, sai, quelle cose che fa sempre di moda, no? E quindi credo che indubbiamente abbia raggiunto quella maturità e quella continuità che in questo momento Dybala deve ancora raggiungere, ma che indubbiamente ha grandissime margini di miglioramento. Io credo di aver sentito ieri tra le righe Spalletti dire chi se ne frega se non è un attaccante che mi fa tutta la fase di collaborazione, per carità deve migliorare, però poi se lui è uno che prende la palla e segna me lo tengo anche così, che di fatto chiude un antico dibattito, perché Mancini ci si è scontrato tanto con Icardi. Sì, ma insomma, guarda, la cosa fondamentale secondo me, poi ovviamente siamo anche in qualche modo condizionati dal risultato, la partita di ieri poteva girare, sicuramente la Roma poteva vincerla, c'è il discorso del VAR, tutto quello che vuoi, però a me è stata veramente un'Inter pratica, fisica, che sa esattamente quello che deve fare, molto semplice, l'Inter ieri è sembrata molto semplice, anche contro la Fiorentina, ed è un complimento, cioè una caratteristica estremamente positiva. E Icardi in questa semplicità è uno che è una certezza, nel senso che mentre Liverpool raddoppia con Mané sull'Arsenal, sì, il Chelsea ha battuto l'Everton, così diamo gli aggiornamenti di Premier. Prego, è una certezza, è una certezza assoluta, quindi è un giocatore secondo me imprescindibile. E francamente, insomma, ha fatto bene in tutti questi anni, ha avuto qualche attrito con i tifosi, ha avuto qualche pausa di rendimento, ma insomma se guardiamo l'anno scorso ha fatto 24 gol, due in più dell'anno in cui è stato capocannoniere, alla pari con Toni. Sì, credo che discutere Icardi sia una follia. Il paradosso è che a Milano è stato anche tanto discusso per varie vicende, e lo è credo ancora, così come la sua fascia di capitano. Non so, Riccardo, prima o poi passerà anche questa. A proposito dei simboli, io non credo che la 10 dia qualcosa in più a Dybala. Ho più l'impressione, ma chiedo a voi, che qualche difficoltà di Higuaín in questa fase di inizio di stagione gli stia aprendo più spazi. Ma io credo che Dybala abbia dalla sua anche una fisicità diversa rispetto a Higuaín. È un giocatore che è andato subito in forma. Higuaín è chiaramente un grande motore diesel che però quando prende velocità è difficile poi da fermare, quindi aspetterei ancora a trarre delle conclusioni sulla falsa partenza di Higuaín, perché è chiaro che la stagione è molto lunga. E Dybala è quel giocatore in questo momento che quando la squadra abbatte i ritmi e non è in grado di reagire sull'1-2, in questo caso di Genova, guarda caso viene fuori il talento naturale di un giocatore che da solo prende in mano la squadra e la porta al successo, perché ieri indubbiamente la Juve è andata veramente a ritmi molto molto bassi, e lui sembrava avesse chiaramente 3-4 marce in più, perché comunque oltre ad andare veloce con le gambe è veloce anche di pensiero, e quindi è chiaro che è un giocatore straordinario da questo punto di vista. Guarda, io penso questo, che è chiaro che Higuaín farà tanti gol, non c'è dubbio, non è che non c'è niente di patologico o di anormale nell'inizio di stagione di Higuaín, sono le sue caratteristiche fisiche che lo frenano un po' rispetto agli altri giocatori, però credo anche che se vogliamo ragionare per gerarchie e per crack, come dicono in Spagna, Dybala rappresenti nel presente e nel futuro della Juve il giocatore che diventerà la testa di serie numero uno, forse lo è già. Lo ha detto di fatto, e l'ha certificato anche Allegri. Ieri Allegri, dopo una tripletta, Pier, ha detto Dybala deve fare una grande stagione in Champions. Di fatto lo certifica. Certo, però, ma sicuramente, ma Dybala, ragazzi, perché poi il calcio è fatto anche di situazioni e di sliding doors, come dico spesso io. Dybala è vero che l'anno scorso ha completamente cannato la finale con quel cartellino giallo e con una prestazione assolutamente non all'altezza, che in qualche modo ha fatto pensare che non avesse ancora quel tipo di personalità internazionale, però è lo stesso che ha trascinato la Juve contro il Barcellona. Allora non è che, cioè, esiste anche un elemento di imponderabilità nelle cose, esiste anche un giorno in cui vai molto bene e un giorno in cui vai meno bene. Io la cosa che Dybala non abbia la testa e la personalità a livello internazionale mi sembra un po' affrettato, essenzialmente è un giudizio che si basa su una partita e che di fatto poi è stata giocata quella partita, perché anche grazie a Dybala la Juve in quella finale c'era arrivata. Certo, prima di lasciare Riccardo Ferri, poi abbiamo il traffico, gli giro questo messaggio: la Roma vista ieri, al di là della sfortuna, non arriva nemmeno quinta in campionato. No, io credo che veramente è chiaro che il risultato determina poi amarezza e si perde un po' l'identità della partita. La partita ha parlato molto chiaramente, la Roma, a parte l'inizio della gara dove l'Inter ha cominciato con il piglio giusto, poi ha preso in mano la gara e meritava, perché comunque ha preso tre pali impressionanti, tra l'altro tutti i pali interni che poi sono i palloni sono usciti. C'è stato l'episodio del VAR, che ovviamente non è intervenuto sul rigore di Perotti. Quindi tante piccole situazioni che potevano far girare l'ago della bilancia verso la Roma. E al di là di quello, io ho visto una Roma che ha lavorato tanto in tutti i reparti, soprattutto a sinistra, dove chiaramente Kolarov e Perotti hanno sicuramente una spinta maggiore rispetto a un Juan Jesus improvvisato e chiaramente a De Frel, ma è chiaro che la Roma con Nainggolan, con De Rossi a centrocampo ha preso in mano il gioco ieri. Sì, però qualche domanda si può fare, perché ad esempio Juan Jesus messo su Perisic qualche dubbio l'ha fatto venire, ma non c'erano alternative. Certo. Diciamo anche che facciamo una considerazione alla partita esterna con l'Atalanta. Io personalmente ho visto una Roma che ha sicuramente migliorato come atteggiamento in campo e come condizione generale. Con l'Atalanta, secondo me, la Roma non ha giocato una partita così importante come l'ha giocata ieri con l'Inter. Quindi questo è un passo in avanti. È chiaro che poi le pressioni vengono quando il risultato viene a mancare, ci si dimentica della prestazione, certo, e giustamente aumentano le pressioni e il malumore da parte dei romanisti, come è naturale che sia nel cuore e nella testa dei tifosi. Grazie Riccardo. Grazie a voi, ciao Pardo. Ciao Ricky, ciao. Grazie Riccardo Ferri, 800240024. Poi apriamo anche il grande tema del VAR. Alcuni messaggi: se al posto dell'Inter si fosse trovata la Juventus si sarebbe parlato di campionato falsato. Poi prime due giornate, due rigori. Ci credo che a Buffon non piaccia il VAR. Secondo me il discorso di Buffon invece va approfondito e merita una discussione che faremo dopo le 18. Arriverà anche Franco Ordine. E il modo migliore per affossare il VAR è dire che va tutto bene, mentre invece tante criticità sono emerse. Poi c'è chi si chiede se l'Inter sia soggetta al VAR. In realtà Orsato e Irrati hanno fatto bene, hanno applicato il protocollo. Poi è chiaro che è un paradosso, perché il rigore di Skriniar su Perotti al 90% c'era, però noi dobbiamo imparare a capire cosa sarà il VAR e che cosa non sarà. Però il VAR, questo l'ho detto 15 giorni fa, quindi si sta puntualmente verificando, abitua le persone al concetto dell'arbitraggio perfetto. Ma non è la moviola in campo. No, lo so. No, però è difficile inculcare questo ragionamento, anche perché poi ci sono altre situazioni per il Genova nelle quali invece viene applicato, anche male, ma voglio dire nelle quali si va a guardare l'episodio. Allora adesso lo facciamo dopo le 6 se vuoi. E allora la domanda è ce lo teniamo così come l'abbiamo visto in queste due settimane o va cambiato? Ha ragione Buffon o ha torto? 800 24 00 24. C'è Roberto da Roma, c'è il traffico, ripartiamo da lui. Benfica. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Molto bene. Tutti convocati. Tutti convocati. Oggi era importante vincere perché le prime due partite erano importanti, andare alla sosta con due vittorie. Siamo partiti il 22 luglio noi perché ci siamo ritrovati tra giocatori che erano fuori, giocatori della nazionale che sono entrati dopo. Praticamente è un mese oggi che lavoriamo, ci manca brillantezza, però abbiamo fatto dei buoni lavori, degli ottimi lavori a livello di fatica. È normale che poi dopo da ottobre in poi incominceremo a correre. Questo Allegri che giustifica anche l'avvio difficile della Juve ieri a Marassi contro il Genoa. Allora, qualche messaggio, troppe sviolinate pro Icardi, è micidiale in area ma non rientra e partecipa poco alle altre fasi del gioco. Io dico serenamente, carissimo Pier, chi se ne frega, nel senso che se poi fa gol tutte le volte che tocca palla. No, sono d'accordissimo, cioè, sono d'accordo con tutti e due, è vero, rientra poco, partecipa poco... Però la sua dimensione è questa, evidentemente, certo. La sua dimensione è questa, poi Di Francesco... Da 30 gol a campionato. Certo, Di Francesco deve avere il coraggio di provare il giovane turco al posto di De Frel. Sì, anche se De Frel non mi era dispiaciuto, io credo che... Però è fuori ruolo, eh. Lì guarda, manca qualcosa dal mercato. Io manca qualcosa dal mercato, sicuramente. Non dimentichiamoci che la Roma ha speso dei soldi per un terzino destro che torna a ottobre, ed è un problema quello. E ieri oltretutto il problema era acuito anche dal fatto che Bruno Perez stava fuori, quindi il problema con Jesus è emerso in tutta la sua dirompenza, se mi passi questa espressione, nel senso che si è visto poi contro Perisic, c'è un grande giocatore, ieri insomma si sapeva che era una delle aree dove poteva mancare. Io penso che il problema della Roma sia tattico, cioè io penso che Di Francesco è affezionato al 4-3-3, è chiaro che Nainggolan può giocare nel 4-3-3, per carità, non è che non lo possa fare, l'ha fatto per una vita. Però penso anche che un 4-2-3-1 con due uomini a protezione della difesa, o anche al limite una difesa a tre, con poi comunque la possibilità di dare più spazio a Nainggolan, sia più adatto come modulo, sia più adatto alle caratteristiche della squadra. Detto questo, insomma, io sono dell'idea che si debba aspettare. Non dimentichiamoci che Sarri, che era un altro allenatore emergente, è arrivato a Napoli, ha fatto, se non sbaglio, due punti nelle prime tre partite, sì, e sì, oggi e poi è decollato. Allora, Roberto da Roma, vai Roberto. Eccomi, buonasera. Due considerazioni veloci. La prima, penso che l'Inter, o meglio, la Roma è stata punita non tanto dall'Inter e dai Cardi, meraviglioso per carità, ma dalla Nemesi, cioè dalla dea della vendetta che è intervenuta a riparare gli errori fatti con l'Atalanta. Ma a parte questa considerazione più letteraria, che calcisticamente la Roma ha perso un incontro diretto, questo è il succo per la corsa Champions, questo è il grave. Sì, questo è quello che pesa, ma io credo che in un campionato come questo, dove dietro la Juve e il Napoli sono in tre a correre per due posti, partite come quelle di ieri pesino il doppio. È quasi banale dirlo, ma è così, e mi è parso anche di leggerlo da alcune facce viste di tifosi della Roma allo stadio alla fine della partita. C'era grande entusiasmo prima, ritrovato fortunatamente, e insomma Roma vive sul filo, Pier, di quella cosa lì, l'entusiasmo serve. Prima di tutto Roma vive un paradosso, perché comunque una squadra che arriva seconda in classifica, quindi con la certezza della Champions League, che si trova a dover, non dico smantellare la squadra perché non esageriamo, però perdere comunque pezzi così importanti è praticamente un unicum, cioè non è una cosa che succede tutti gli anni. E poi sicuramente c'è un allenatore nuovo, ci sono dei dubbi, e quindi insomma sì, poi c'è la netta sensazione, di essere partiti dietro il Napoli, oltre che dietro la Juve. Questo è un paradosso. Fammi salutare intanto Gianni Balzarini, collega di Sport Mediaset di Premium. Ciao Gianni. Ciao, ciao ragazzi, ciao Piero. Oh, così chiudiamo il discorso sulla Juventus, al netto del VAR e di tutte le discussioni, anche al netto di Dybala. Io volevo capire se c'è una bocciatura o è in vista una bocciatura, una rilettura su Rugani. No, ho letto oggi le pagelle, a Rugani è più o meno ovunque è stato giudicato il peggiore, arriva Oedes. Sì, ma guarda, allora, bocciatura direi di no. Così come aveva ottimamente impressionato nella prima partita contro il Cagliari, è vero che ieri ha sofferto Galabinov in particolare. Si dirà, appunto, se uno soffre Galabinov, figuriamoci se deve fronteggiare Suarez o Messi nella prossima sfida contro il Barcellona in Champions. È anche vero che i giovani sono spesso soggetti a rendimenti alternati. Ieri ha un po' sofferto tutto il reparto difensivo in alcune folate offensive del Genoa. Quindi non andrei a indicare proprio in Rugani il cosiddetto capro espiatorio. Certo è che ha offerto una prestazione inferiore a livello di rendimento rispetto a quella che aveva offerto contro il Cagliari e dalla quale si poteva presupporre che per lui iniziasse una lunga serie di partite da titolare. Però attenzione, questo non significa secondo me che sia stato bocciato e che magari già alla prossima di campionato contro il Chievo lui non debba giocare dall'inizio, insomma. Pier? No, sicuramente ha un compito non facile. In generale i quattro rimasti senza Bonucci hanno un compito complicato, in particolar modo Rugani, perché Rugani è giovane e su Rugani ci sono grandi aspettative, grandi speranze e quindi è ovvio anche grandi pressioni. Bonucci è uno, ma questa cosa la sappiamo, anche in fase di impostazione della manovra è un giocatore praticamente insostituibile, però è anche un giocatore non più giovanissimo che è stato venduto a una cifra importante. Insomma, la Juve ha fatto è un rischio calcolato, diciamo, la cessione di Bonucci. Un po' di pressione addosso a Rugani c'è, ieri la difesa della Juve non mi è piaciuta, mi sembra che queste prime partite confermino qualche patema, però è pure vero che se poi la Juve va a vincere a Genova pur concedendo due gol così, alla fine il problema è molto relativo. Quindi alla fine fa sei punti nelle prime due partite, appunto, l'obiettivo, e nemmeno con gare semplicissime sulla carta, perché la trasferta a Massi non è facile. Anche abbastanza comodi alla fine, no? Nel senso che... Non è la Juve migliore, quindi questo ti fa capire quando ci sarà la Juve migliore, un po' come il discorso dell'Inter. Mi sembra che ci sia ancora un bel margine di crescita davanti. Volevo chiedere a Gianni Balzarini se quando Allegri dice dopo la sosta comincia la vera stagione significa anche che cominceremo a vedere in campo dal primo minuto il mercato della Juventus. Bella domanda, sai che i tempi di Allegri sono molto particolari, anche se adesso ha un po' stupito tutti, perché praticamente l'ultimo arrivato, Matuidi, ha giocato due spezzoni di partite, quindi già aveva stupito che l'avesse messo contro il Cagliari dopo un solo allenamento, l'ha rimesso ieri, effettivamente ha dato un'altra vitalità in quel reparto, perché che dire, mi sembra un po' spento ultimamente. Da qui anche qui a dire che subito con la ripresa si vedranno in campo dal primo minuto i nuovi acquisti o la maggior parte di loro, credo che ce ne passi ancora. Insomma, i tempi di Allegri sono abbastanza chiari, lo aveva fatto anche con Dybala. In particolare che lo faccia ad esempio con uno come Douglas Costa. Ecco, esatto, però che guarda, è un giocatore ti dico, fatto ieri, e finito. Ti dico che ieri Douglas Costa è stato anche sfortunato, tra parentesi, perché allora intanto a monte velocissimamente Douglas Costa ha dovuto svolgere una preparazione un po' diversa dai compagni, o meglio diversa da quella a cui era abituato, per cui i carichi di lavoro che ha fatto in Italia si stanno facendo sentire un po' di più su di lui. Cioè sostanzialmente non ha i 90 minuti delle gambe, tanto per essere originali con una frase che non avete mai sentito dire. Detto questo, ieri si stavano preparando a cambiare da quella parte, cioè a togliere Cuadrado e a mettere Douglas Costa, e Cuadrado ha sfoderato questo gol, se vogliamo dire, molto bello, perché il gesto tecnico ottimo, stop, dribbling a rientrare e sinistro sul palo più lontano. A quel punto, insomma, evidentemente anche per una questione del tutto psicologica, Allegri ha preferito non operare questa sostituzione. Certo. Non operare questa sostituzione. Credo che col tempo, insomma, però si vedranno... io credo sarà uno dei primi che vedremo, Douglas Costa, poi magari per gli altri. Sì. Ci possono essere dei tempi di ingresso più lunghi. Prego Gianni, poi abbiamo Giro. Credo che il primo a vedersi a questo punto è estremamente candidato è Matuidi. Anche perché Khedira non mi sembra brillantissimo, sì. Ma magari esatto. C'è una questione fisica anche qui. Grazie Gianni Balzarini. Di nulla, a voi. Grazie ciao, Gianni, ragazzi. Alla prossima. Pier, abbiamo il GR. Stanno arrivando già tanti messaggi sul VAR, che è il tema. Dopo le 18, 800 24 00 24, torniamo subito. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da... Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Tutti convocati. Come quella di oggi, secondo me è una partita da zero rigori. I contatti nel calcio ci sono e non vuol dire che ogni contatto è un rigore, e lo dico dandomi la zappa sui piedi, perché io faccio parte di una squadra forte e le squadre forti attaccano molto, e noi l'anno scorso abbiamo avuto 3 rigori a favore in 38 partite, e se facciamo questo uso della VAR vuol dire che noi quest'anno ne avremo 55, e secondo me sembra una follia, cioè liberiamo veramente gli arbitri dal mostro. Se tu non dai rigore non devi dare nemmeno angolo, perché l'assurdità è che è stato dato anche il calcio d'angolo, esatto, non lo vedi, quindi. Anche con la VAR non va bene. Mi dispiace perché io non alleno più il Sassuolo, pensavo di allenare la Roma, e spesso capitava che quando era Sassuolo questi episodi non si vedevano. Poi è facile stare a parlare del 3-1 a favore dell'Inter, complimenti tutta all'Inter, grande Inter, quando questo episodio è solo 1-0 per noi. Secondo me non è rigore, nel senso che lui va per intercettare il pallone, non prende la palla, però non è che provochi questo tackle o questa botta al giocatore, a Perotti, creandogli delle difficoltà enormi. Non è normale che con la tecnologia che si usa adesso non si vede. Aspettavi l'intervento del VAR, ti aspettavi sull'intervento di Skriniar su di te? Tu no? Sì, ma tu sarà più interessante quello che pensi te. È brutto che si sbaglia anche guardando la partita con tranquillità e in un ufficio con 3-4 TV. Dai, scatenatevi, 800 24 00 24. La domanda secca è: state con Buffon o state contro Buffon? C'è Pierluigi Pardo, è arrivato Franco Ordine, ciao Franco. Eccoci qua. Ci sono tanti messaggi, c'è chi dice il VAR non piace, uno dei fascini del calcio era la totale uguaglianza di regole. Insomma, a me sembra che fino a qualche mese fa ci si lamentasse del fatto che le regole non venissero applicate alla stessa maniera per tutti, però insomma è evidente che è tema di cui si può parlare. Saluto Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport, che ha pochissimi minuti da dedicarci. Lo ringrazio, direttore, ciao, buon pomeriggio. Grazie a voi. Ciao. Allora, mi pare, leggendo il tuo editoriale di oggi su Tutto Sport, con il VAR finiti gli alibi, che tu la pensi un po' diversamente da Buffon. Ma no, ma non è che Buffon la pensi diversamente, perché lui dice un uso un po' più parsimonioso, che diciamo significa poco parsimonioso, o c'è o non c'è il VAR. Si può essere un pochettino più attenti, però io sono per una tecnologia che può essere raffinata, migliorata quanto si vuole, ma che sicuramente ha rilevato degli errori, la maggioranza, assolutamente insindacabili. Poi si può discutere sul recupero del tempo, sull'episodio di Roma, quello che si vuole, però l'episodio del Benevento, il gol del Benevento era fondamentale, e sui 2 rigori, al netto di un fuorigioco millimetrico, altre 2 decisioni giuste, secondo me. Quindi, sì, però io credo che si debba capire di che VAR stiamo parlando. Però ragazzi, perché se il VAR è quello che analizza gli episodi, come abbiamo visto in queste 2 settimane, e non lo fa a Roma, probabilmente perché viene applicato giustamente il protocollo, ci spiegano gli specialisti del VAR, e allora bisogna chiarire l'aspettativa alla gente da casa, oltre esatto. Che agli addetti ai lavori. Esatto, sì. Il problema è esattamente quello, è l'aspettativa, yeah. È che giusto o sbagliato che sia, il VAR, siccome avvicina, diciamo, per capirci, l'arbitraggio alla perfezione, e poi quando sbaglia fa doppiamente rumore, perché Perotti dice: ma scusate, ma questo è rigore, in due con le videocassette, con tutte le immagini, non chiedono almeno all'arbitro di fare una verifica? Cioè, ha ragione. Così come sul fuorigioco. Il fuorigioco è assurdo. Cioè, come si può sbagliare? Come si può sbagliare quell'episodio lì sul calcio di rigore per il Genoa? Quello lì è uno dei pochi episodi metrici. È semplicissimo. È semplicissimo. Scusami, è semplicissimo. Intanto bisogna far capire alla gente che il VAR non è la moviola in campo per ogni episodio, primo punto. Secondo punto, è semplicissimo perché non hanno visto il fuorigioco, perché sono andati a rivedere solo e soltanto... E hanno sbagliato. Certo, lo so, ma per questo motivo. E poi, terzo motivo, io condivido quello che dice Paolo, però dico anche che ha ragione Buffon nel sostenere soltanto una cosa, la lunghezza dei tempi e poi secondo me il numero eccessivo degli episodi, quello sì, cioè non è che si può fare il VAR su tutto. E a Roma ieri il problema numero uno, sapete qual è stato? Che l'arbitro dietro la telecamera era orsato, sì, perché era se ci uno. Fosse stato un altro, il Ratti aveva il dovere di andarsene a vedere lui per conto direttore. Suo. Sì. No, allora io però voglio una cosa, sono d'accordo, ecco, l'ultimo intervento di ordine lo sottolineo anch'io, però dobbiamo fare un discorso di massima. È meglio il calcio con un VAR che sicuramente deve essere rassinato o no? Perché così ci facciamo comprendere. Allora, secondo me sì. Esatto. Cioè, nettamente favorevole, cioè, a questo strumento che può essere nettamente migliorato. Però assolutamente favorevole. Ma perché infatti... secondo me si spengono tantissime polemiche. La famosa sudditanza, i famosi campionati alterati o meno. Insomma, la smettiamo con una polemica un pochettino pretestuosa che esiste solo nel nostro calcio, ma... e ci abitua magari a un clima un po' più sereno. Scusate, la sudditanza, permesso che non voglio certamente alimentarla io, ma l'Inter ha avuto contro la Fiorentina, esatto, una situazione forse di calcio di rigore che non è stato dato. Sì. Ieri ha avuto una situazione, cioè, voglio dire, se uno vuol pensare male, permesso che io non ho mai pensato male, non pensavo male prima, quindi più o meno se penso male adesso, ci mancherebbe altro. E quindi che possiamo chiaramente... però no, che dobbiamo pensare? Dirti... No, ma voglio dirti, sono che chiaramente c'è dietro qualcosa. Ma no, assolutamente, io... assolutamente no. Però quello che ti voglio dire è che la cultura del sospetto No, ma scusami Pier, funziona la cultura del sospetto. Sono d'accordo, sono scusa Pier, battiamola tutti. Ma perché... sono d'accordo, la dobbiamo combattere tutti. Io questo dico, cioè tutti quanti la dobbiamo combattere, perché ma sennò ci mancherebbe, ci arrovelleremo in delle polemiche che non portano da nessuna parte. Allora, sono il primo, io sono il primo. Poi sapete che a volte ho fatto anche delle titolazioni abbastanza forti contro determinati arbitraggi, ma me la sono preso sempre con l'arbitraggio. Io dico che questo è un fortissimo depotenziamento dell'arbitro. Certo. E dico finalmente, non voglio più, ma questo lo dico personalmente, arbitri protagonisti. Sì, ma non è un potenziamento dell'arbitro di VAR, perché ieri Orsato ha deciso che quello non è rigore, l'ha deciso Orsato. E su sì, quello, l'ha su quello si può discutere. Allora, potenziare uno che ha deciso la televisione e che probabilmente ha sbagliato. Scusa, è un bel vantaggio quello con la televisione. Scusa Pier, scusa Pier. E allora, diamo per buona la tua ricostruzione, che è anche la mia. Allora, facciamo la contabilità. Finora, quali sono stati gli errori? Allora, bravissimo, gli errori sono stati il primo di Bologna, il secondo di Genova ieri e probabilmente discutibilmente quello di Roma. Ora, secondo me, da qui alle prossime giornate di campionato si può affinare, si può aggiustare, si può limitare, si può migliorare. Franco, scusami, aggiungi anche un'altra cosa. Riguardiamo la classifica al netto degli errori della VAR. Sì. O del VAR, sì, perché anche questo è interessante. Certo. E allora dopo due giornate già troveresti delle classifiche diverse rispetto, certo, all'anno scorso. Certo, ma certo, nettamente. Certo. Io però a proposito della mentalità vi segnalo la dichiarazione di Di Francesco, perché se Di Francesco dice io pensando di sono passato dal Sassuolo alla Roma e pensavo, sì, di trovare, questa è la dimostrazione che lui in testa c'ha il virus della sudditanza. Sì, ma non è l'unico, ragazzi. Aspettate, perché c'è il traffico e siamo anche in ritardo. Io libero e ringrazio il direttore di Tutto Sport, Paolo De Paola. Grazie a voi, grazie. Un saluto perché colleghi. Sta giocando ciao, il Toro, Paolo. Tra l'altro 13 minuti 0-0 Torino-Sassuolo. Grazie direttore, ma tanto andiamo avanti a parlarne. Io ho un'opinione diversa, ad esempio, rispetto a Pierre su che cosa è successo in Inter-Fiorentina. E ribadisco, il VAR non è la moviola in campo, però capisco che se ne possa discutere. Dico solo che una settimana fa io ho letto giudizi troppo entusiastici e il modo migliore per affossare il VAR è far finta che non ci siano dei grossi problemi di applicazione che dovremo imparare a conoscere, a capire nei prossimi mesi. Ci sono anche Giovanni da Treviso e Nicola da Napoli, facciamo che c'è il traffico e poi torniamo. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Tutti convocati. Mi fa di un dolore che se ci ripenso batto la testa qua, guardate, perché... No, ma io non voglio commentare. L'anno scorso abbiamo fatto 19 risultati negli ultimi minuti, oggi eravamo riusciti ancora una volta a fare questa cosa, però devo anche dire che se è irregolare, è irregolare. Mi dispiace perché è toccata a noi. Magari si staccava la corrente in quel momento, passava ancora qualche secondo. Barone l'ha presa bene, ieri quello che è successo in Benevento Bologna. Allora, adesso facciamo Giovanni da Treviso e Nicola da Napoli. Io credo che il punto non sia dire, cosa che è assolutamente vera, che il paradosso è che a Roma non sia stato riosservato un episodio che probabilmente avrebbe portato alla concessione del rigore per la Roma. Io penso questo. Il problema sia dire alla gente che quegli episodi lì non devono essere rivisti con il VAR, perché il VAR è stato concepito per una cosa diversa. Certo. e ha ragione Buffone. In queste prime due settimane è stato usato troppo, secondo me anche Marassi. Certo, sono stati dati due rigori televisivi. Certo. Sono d'accordo con te, certo, però certo. Se tu cominci a dare i rigori televisivi, poi è difficile andare a spiegare al tifoso della Fiorentina che quel contatto, che poi magari non era neanche rigore, Tagliamento non l'ha voluto rivedere. È difficile andare da Di Francesco a piedi. Il problema del VAR è che risolvere i problemi, io rimango ottimista, fiducioso e positivo, risolvere i problemi, ma ti ripeto, alza l'asticella. Cioè, mentre il rigore di Perotti a velocità normale un arbitro può non darlo e avremmo detto si può dare, si può non dare, comunque è un errore di un'azione che avviene, sì, c'è uno spicchio di palla sfiorata, insomma si può ragionare. L'idea che un episodio come questo, con il tipo di iter e di prassi che c'è in queste prime giornate, non sia oggetto di, almeno di una revisione che poi porti l'arbitro a decidere se è rigore o no, questo è più difficile secondo me da far spiegare. Scusa Pier, volevo dirti questo. L'aspetto secondo me più inquietante della vicenda è il seguente, e cioè c'è l'azione, Irrati dice che non è in rigore e dà sbagliando due volte il calcio d'angolo. Orsato rivede l'azione in regia e dice no, va bene, hai fatto bene, vai tranquillo. Questo è un errore clamoroso, perché vuol dire che lo stesso episodio è stato giudicato due volte da due persone diverse, vale. E invece è Irrati che deve rivederlo. No, è Franco, però scusami, dal punto di vista psicologico, premesso che siamo tutti contro la cultura del complotto, nel nostro piccolo io penso che l'ha sempre combattuta, cioè non sono uno che crede nella malafede, non ho mai creduto nella malafede, e se credessi nella malafede andrei a fare altre cose, probabilmente il giocatore di golf professionista o la rockstar, però non ci riuscirei. Però voglio dirti, adesso è difficile andare di fronte a un errore come quello, o di fronte all'errore del rigore concesso al Genoa, della situazione del fuorigioco, ed è molto difficile andare dalle persone a dire... Mentre un errore in campo lo accetti, perché fa parte, cioè se hai il calcio di una volta l'errore lo accetti più facilmente. Sì, ma guardate perché... che ci sono tematiche complesse. A me ieri è venuto in mente, e secondo me è un tema su cui bisognerà confrontarsi, dovranno confrontarsi loro, la gestione dell'errore di un VAR, il condizionamento che può venire a un VAR che sa di aver sbagliato. Una volta si diceva con la compensazione un arbitro sbaglia due volte. Il paradosso è che un VAR un episodio compensativo lo trova anche giusto, perché un rigore televisivo si trova sempre nei 60-50 minuti che restano da lì alla fine della partita. Cioè, il VAR va maneggiato con cura. Ripeto, in generale risolverà delle situazioni. Cioè, alla fine dell'anno noi valuteremo, se qualcuno avrà la voglia di fare questo lavoro in mano, di prendere tutti gli episodi, sicuramente avrà corretto delle situazioni. Numericamente avrà aiutato, avrà tolto degli errori. Però quando invece questi errori non li toglie, quando in qualche caso addirittura li crea, è più grave. Sì. Perché mentre prima era un arbitraggio, ovviamente a velocità reale di uomini che fanno un lavoro difficilissimo, perché arbitrare è difficilissimo, con dei contatti a velocità supersonica, e devono decidere. Adesso dire, cioè, chiedersi come abbiamo fatto, come ha fatto l'arbitro di VAR, Genoa Juve, non vedere che quello era fuori gioco, è un errore grave. Diventa più difficile. Nicola da Napoli, Nicola. Pronto? Vai. Allora, buonasera. Una cosa, l'anno scorso, cioè quest'anno, in 13 partite saranno state fatte 14, una ventina di interventi già del VAR. Sì. E allora l'anno scorso c'erano 20 interventi da fare sul VAR che non sono stati risolti. Ma l'anno scorso non c'era il VAR, perdonami, no, Nicola. No, lui dice che anche l'anno scorso, l'anno scorso ci sarebbero stati 20 interventi. Lo si sta usando troppo, sono d'accordo con Giovanni. Poi voglio sapere un'altra cosa, vorrei sapere. In Germania mi pare lo stanno attuando. Sì, in Italia e in Germania. Cioè come sta andando in Germania? Sta andando con qualche discussione anche lì. E poi la verità è che tutti stiamo facendo dei grandi test. Poi ci sarà il mondiale dove verrà utilizzato nel 2018, quindi nella prossima estate. E poi la FIFA vedrà se si va avanti col VAR o se il protocollo va riscritto o si torna indietro. Cioè, la provocazione, Giovanni, adesso non è che una settimana siamo ottimisti e una settimana diventiamo pessimisti, però il VAR nei confronti della discrezionalità degli arbitri, in che direzione va? Dovrebbe togliere, dovrebbe dare scientificità nei limiti del possibile, premesso che il calcio non è un gioco scientifico. E invece in realtà abbiamo visto che esiste una discrezionalità anche nell'applicazione del VAR. Il discorso che è stato fatto sul fatto che Orsato ovviamente è un grande arbitro di enorme personalità, probabilmente una parola detta da Orsato pesa di più di una parola detta da un debuttante, quindi quando Orsato gli dice no vai tranquillo, hai fatto certo, pesa di più, quindi voglio dire, l'illusione che magari qualcuno poteva coltivare che questo tipo di meccanismo andasse fosse asettico, capito? In realtà invece no, non è così. Cioè, esiste, e come lo dicevi tu prima, anche cioè, se uno vuole pensare alla sudditanza, ma al condizionamento di un arbitro che si rende conto, pensa anche semplicemente il fatto che un arbitro di VAR rispetto all'arbitro di campo che deve continuare ad arbitrare in tempo reale, un arbitro di VAR potrebbe essersi reso conto qualche minuto dopo che ha commesso l'errore. Sì, è molto quello che dicevo di prima io, l'arbitro non lo sa. No, ma c'è tutta una casistica che andrà, io credo ragionata. Mi fate chiedere a Walter Novellino da che parte sta lui sul VAR? Dalla parte del VAR. È una cosa nuova, una cosa è normale che ci sono delle cose che ancora non vanno bene, non vanno bene più che altro per noi, per chi la subisce e chi non la subisce, insomma. E poi la decisione deve essere la decisione dell'arbitro lì, no? Io credo che è qualcosa di nuovo, qualcosa di importante, che in quel momento l'arbitro può darsi che non riesce a vedere una tale situazione come quella di Genova, non l'ha visto, ha chiesto l'aiuto e con l'aiuto del VAR è andato tutto bene. Io ho l'impressione però che tra gli addetti ai lavori, e parlo quindi di calciatori e allenatori, siano in tanti noi che la pensano come Buffon. Cioè, che è un calcio diverso, è un po' meno calcio. Lui ieri poi ha fatto il paragone con la pallanuoto e ha sbagliato, perché la pallanuoto è uno sport di estremo contatto. Però lasciamo stare il paragone. Sì, ha ragione, però nello stesso tempo è ovvio che se c'è una cosa nuova dobbiamo accettarla, seguirla. È ovvio che ci sono delle difficoltà in questo momento, è normale, no? Che forse si perde un po' troppo, non è più calcio, invece no, è innovativo, è normale, chi lo subisce nel momento che lo subisci e poi c'è, come avete detto prima, insomma, io credo che la sudditanza psicologica inizia più. Ciao Walter. Ciao, sono Franco. Ciao. Ordine. Innanzitutto come stai? Ciao, dopo la caduta di ieri in tribuna, come stai? Mi sono fatto male, non ho potuto correre. No, volevo dire, mi fa piacere che gli addetti ai lavori siano, come dire, tutti favorevoli. Ma noi infatti dovremo poi giudicare, secondo me, a metà campionato, e dovremo fare la contabilità per capire anche numericamente, statisticamente, quanti errori clamorosi ha corretto e quanti errori ha provocato. Aggiungo, ieri il rigore di Genova di Mandzukic non se n'era accorto nemmeno Mandzukic, che ha calciato a mezzo metro dal difensore genovano. Se non interviene il VAR, nessuno se ne accorge. Allora io dico, da questo punto di vista, ben venga, cioè io dico, se c'è un beneficio, che ce le porti al 50, al 60, al 70% degli errori evitati, ma c'è da fare la festa in piazza. Sì, in realtà le categorie sono tre: ci sono gli errori corretti, gli errori non corretti, tipo Perotti di ieri, quelli l'arbitro lascia giocare, il VAR non interviene e quindi si va avanti, e poi c'è gli errori anche un po' creati, di gioco a Genova, e poi gli errori creati, cioè Genova è un errore. Genova è un errore, ma non perché non ci sia il contatto, è un errore perché quello. Quindi cioè, ci sono situazioni virtuose, situazioni neutre, che però, ripeto, secondo me fanno più male di prima, perché è difficile andare da un tifoso o da un addetto ai lavori a dirti che l'errore è stato fatto sia dall'arbitro di campo, e vabbè, lo accetti perché fa parte della velocità del calcio, ma anche da parte di uno che aveva le immagini, e soprattutto che in questo clima di iperutilizzo, io sono d'accordo con Giovanni, forse di eccessivo utilizzo del VAR, su un episodio del genere non c'è neanche la ricerca, cioè si decide di non andarlo a vedere. Allora, quella cosa lì, secondo me, è grave. È grave dal punto di vista della credibilità del sistema. Ma lo decide, non è che lo decide l'arbitro, lo decide quello che lo vede da sopra, eh. No, in realtà l'ultima parola dovrebbe essere di Rati, cioè dell'arbitro di campo, però è chiaro l'ultima che... parola, però l'ultima parola è però lì l'errore è doppio, cioè ieri il miglior arbitro italiano forzato, senza dubbi credo, no? Con le telecamere davanti ha sbagliato assieme a un altro ottimo arbitro come Rati. Allora, premesso che siamo tutti ovviamente per la cultura della trasparenza, ci mancherebbe altro, si può sbagliare anche davanti alla televisione, io lo dico da anni, quanto è difficile per un telefonista giudicare gli episodi. Ma che io, Compagnoni, Caressa, Piccinini, queste robe le viviamo da vent'anni. Ma c'è sempre la buona fede lì, no? Credo, ma certo, no? Che c'è la buona fede, buona fede c'è sempre, e la cultura della buona fede noi dobbiamo portarla avanti. Però ribadisco, proprio perché c'è la voglia proprio perché ci sono degli errori, quando gli errori avvengono, adesso è più difficile, se non pesano di più. È così? Cioè per un tecnico è più complicato accettarli, Walter? Sì, forse non abbiamo ancora la cultura, no? Perché è nuovo, non abbiamo, però bisogna accettarlo in questo caso. Bisogna accettarlo perché, per esempio ieri, per esempio, nella partita che ho visto il pomeriggio, perché poi la sera abbiamo giocato, quella della Juventus, l'arbitro ha fermato e ha dato il rigore al Genova, però nello stesso tempo c'era forse sì, anche perché è normale che c'è sempre una persona umana che deve decidere, è normale, non ha visto che c'era fuorigioco, ha dato il rigore. È grave. È grave perché il protocollo dice che devi andare a rivedere la filiera dell'azione, però, e lì è una roba di qualche istante prima, però è una cosa talmente nuova. È una cosa talmente nuova. Poi lui è andato a vedere, a controllare. Ma ha controllato solo secondo me lui ha controllato solo il rigore. Certo. Sì, l'altro controllo andava fatto su da Fabbri nella cabina. Bravissimo. È quella persona sopra che doveva valutare prima e chiamare l'arbitro. Guarda che la situazione è così, ma c'è una situazione di fuorigioco. Sì, io voglio dire, premesso che accettiamo e rispettiamo tutto, ci mancherebbe altro, ma ieri 8 occhi, quelli dell'assistente, quelli dell'arbitro di campo, sia in presa diretta che rivedendo le immagini, quella del VAR e quella dell'assistente del VAR, 8 occhi di 4 arbitri, ai quali vogliamo bene perché arbitrare è una cosa difficile, non hanno visto il fuorigioco, fa parte della natura umana, quindi ci mancherebbe altro. Non facciamo errore a nessuno. Pier, non hanno visto un fuorigioco, sono giustificati i due dell'assistente e i due dell'arbitro di campo, io credo, perché era un fuorigioco veramente minimo e a velocità normale in campo. quel fuorigioco lì è quella classica cosa che nel dubbio tieni giù la bandierina davanti allo schermo, ti fa tutto un altro effetto. Ci dobbiamo fermare, io ringrazio Walter Novellino, ciao Walter, grazie, ciao Walter. Alla prossima a tutti, ciao, ciao. Torniamo fra un minuto che parliamo un po' anche di Milan. Intanto 28:30 sul cronometro Torino 0 Sassuolo 0, c'è il Torino che sta attaccando con continuità, Sassuolo un po' in difficoltà, ma fin qui la porta di consigli è rimasta imbattuta. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. 31esimo minuto 0-0 Torino Sassuolo. Siamo ai saluti con Pierluigi Pardo. Ci ciao, sentiamo Gio. Domani ciao, dopo ciao, le 14. Ciao. Tra l'altro segnalo che la chiamata del VAR ieri Benevento Bologna ha condizionato pesantemente la nostra schedina. Vinto io. Vabbè, hai vinto tu. Ma mancano 7 partite, carissimo. Vabbè, io ho perso. Prendi la leggera. Io ho perso la prima giornata per il mancato gol del Torino. Quello era indiscutibile, no? Certo, sei dalla fine. No. È vero, voglio dire, è l'errore arbitrale. Se ho perso di uno, avrei vinto di uno. Vabbè, a domani, Pier. Non faccio polemiche. Ciao. Allora, domani Pierluigi Pardo, dopo le 14, nel nostro consueto appuntamento con tutti i convocati. Allora, vi faccio sentire Montella, ieri la vigilia di Milan-Cagliari, perché sta giocando il Torino col Sassuolo 0-0 32esimo minuto, ma questa sera 20:45 c'è Napoli-Atalanta, Milan-Cagliari, Chievo-Lazio, Spal-Udinese, Crotone-Verona e Fiorentina-Sampdoria. C'è un VAR? No. Vi faccio sentire Montella su due dei casi che ha il Milan in questo momento. Intanto sul mercato. Diamo un po' troppo importanza a quello che viene detto dagli altri. Io sono allenatore del Milan, a me la società non ha mai detto di assegnare la fascia di capitano a Donnarumma e né tantomeno gli è stata promessa. Magari gli è stato detto che nel tempo potrà diventare il capitano del Milan. Allora, questo era su Donnarumma e la fascia promessa, perché Mino Raiola ha detto ci avevano promesso la fascia per Donnarumma, poi l'è andata a Bonucci, vedremo. No, vedremo, ha detto mi devono spiegare, ci devono spiegare. E secondo me la risposta più opportuna sarebbe stata, evidentemente Raiola non parla con Gigio Donnarumma, perché se avesse parlato con Gigio Donnarumma gli avrebbe raccontato e gli avrebbe spiegato lui che è stato il primo a benedire questa decisione da parte dello spogliatoio e della società. Intanto dobbiamo spiegare che in Torino Sassuolo si sono fermati per dissetarsi, c'è il break perché fa troppo caldo e quindi verrà recuperato questo minuto alla fine del primo tempo. Sì, per carità, abbiamo però scoperto dalle parole di Montella che la scelta di Bonucci non è stata indolore dentro lo spogliatoio, così ecco, come era stato raccontato nelle scorse settimane. Non solo, ma ci ha detto in maniera molto chiara e molto evidente che c'è stato, lui ha definito qualche scossa, quindi c'è stato qualche mal di pancia da parte di Montolivo e di Abate, però dice la conclusione è che qualche giorno fa Abate e Bonucci sono andati fuori a cena insieme e quindi questo depone a favore diciamo del fatto che è stata metabolizzata la decisione e la scelta, che io personalmente per quel che può contare ritengo giusta, legittima e addirittura necessaria in un ambiente nel quale c'erano 11 nuovi giocatori, un croato, un turco, uno svizzero, un argentino, un portoghese, insomma troppa gente proveniente da calci diversi, da società diverse, e c'era bisogno di qualcuno che esprimesse oltre che la leadership anche esprimesse anche personalità. Ma se avesse rinnovato a giugno, Donnarumma sarebbe stato il capitano del Milan? Sarebbe stato il capitano del Milan a giugno probabilmente, ma non lo sarebbe stato quando è arrivato Bonucci. Obiettivamente in questi casi si fa come si farebbe in qualsiasi squadra di calcio. Se arriva un giocatore che ha un curriculum con molte più medaglie al petto di un altro, precedenza chi ha le più medaglie al petto. Allora, quello sul mercato c'è? Sì, lo sentiamo. Sei contento che manchino solo più 4 giorni al mercato? Il direttore lo vedo molto molto stanco, quindi mi auguro che davvero finisca presto. So che benissimo negli ultimi giorni di mercato è un po' come le vigilie delle grandi partite, insomma, no? C'è un po' di tensione da parte di tutti e davvero mi auguro che questo non possa e non debba distrarre la squadra. E il futuro adesso è il Cagliari, poi ci riposiamo un po', soprattutto chi non, come me, che non va in nazionale. Pensiamo al Cagliari e concentriamoci veramente sul Cagliari. Questo sul mercato, domani c'è il CDA, non dovrebbero esserci extra budget per il mercato. No, non ma è una riunione tecnica per approvare il bilancio. Non ce ne sono, ci sarà solo e soltanto l'approvazione del bilancio, che è l'unico argomento iscritto all'ordine del giorno. Adesso vi leggo cosa ha detto Fassone al Guardian, parole su cui è bene ragionare. Giovanni da Treviso, Giovanni. Buonasera a tutti. Prego. Io mi avevo chiamato prima per quanto riguarda la VAR, parlando un attimo del fatto che secondo me, pensando un attimo al rugby, che è uno sport un po' diverso dal calcio e forse anche più difficile da giudicare, la cosa è diventata una normalità per il rugby. Dobbiamo solo attendere che gli errori possono capitare, secondo me, e sono capitati ieri e capiteranno. Dobbiamo abituarci, è come l'aria condizionata in macchina, all'inizio nessuno la voleva e adesso nessuno può farne a meno. Secondo me la VAR può essere molto, molto utile, solo credo sia nata, sembra qualità, contro la Juve, solo la Juve. No, ma io non credo che sia nata solo contro la Juve e non credo nemmeno che Buffon dica quello che ha detto ieri, perché in due domeniche gli hanno dato due rigori contro. Secondo me si perde un po' il punto del ragionamento. C'è anche chi dice, e ha scritto un messaggio, anche quando è stato inserito il divieto di passare la palla al portiere, di farla prendere con mano, i calciatori si sono fasciati la testa, poi è diventata la norma. E soprattutto non ha provocato tragedie. Allora, Fassone questa mattina sul Guardian, a parlare di quello che è il futuro del Milan, ha detto: nello scenario peggiore, come mi chiedono tanti tifosi, io dico che al massimo nell'ottobre del prossimo anno il proprietario del Milan non sarà più lì, ma sarà Iliot. E questo è soltanto lo scenario peggiore, perché ritengo che al 99% si andrà avanti con lì, ma se anche dovesse capitare, dice Fassone, non è che quelli di Iliot sono dei desperados, così scrive, sono dei disperati, così scrive, scrive il Guardian riportando il virgolettato di Fassone, semplicemente sarebbero uno dei più grandi hedge fund e avrebbero probabilmente tutto l'interesse a vendere il Milan, avendolo pagato solo 300 milioni di euro. Sì, no, io devo dire che la cosa più, non dice niente di nuovo dal punto di vista della sostanza, lo sapevamo tutti, quelli male informati e quelli ben informati sanno benissimo che entro l'ottobre del 2018 devono restituire i famosi 303 milioni al fondo Elliott, e che nel caso in cui non facessero in tempo entro quella data a restituirli, è chiaro che Elliott non può abolire il Milan, ma può solo e soltanto valorizzarlo per tentare di venderlo al meglio del suo valore commerciale. Secondo me la cosa detta da lui più allarmante è la frase successiva, e cioè quando ci dice che nel caso esiste in cui un piano A e un piano B, quando, nel caso in cui non si toccasse il piano A, e cioè la qualificazione in zona Champions nelle prime quattro piazze della classifica, la soluzione sarebbe quella di vendere dei giocatori. E allora a questo punto è chiaro ed è evidente che le preoccupazioni dei tifosi del Milan continueranno a salire. Sì, anche se io credo che sia un'operazione di chiarezza. Certo che è un'operazione di chiarezza, ed è un'operazione che spiega anche perché dal punto di vista operativo Fassone e Mirabelli hanno puntato tutto su quest'anno, perché non potevano programmare in più anni l'investimento massiccio che è stato fatto dal punto di vista tecnico della squadra, per cui hanno detto puntiamo tutto su quest'anno, se riusciamo ad andare in Champions, in modo tale da avere respiro per le prossime stagioni. E Fassone dice dovremo vendere un nostro top giocatore, il nome è Donnarumma, il che riporta secondo me a chi è il vero vincitore di tutta la vicenda Donnarumma, e cioè in questo caso Fassone, che si è garantito una sorta di assicurazione, perché la clausola di Donnarumma è più o meno quello che vale la partecipazione a una stagione di Champions. Beh, più o meno sono 70 milioni, insomma un po' più di una, un po' più di una partecipazione, a meno che tu non preveda l'arrivo ai quarti o addirittura in semifinale. Io dico questo, che eventualmente insomma questo è, diciamo, l'aspetto che dipenderà solo ed esclusivamente dal comportamento della squadra, dalla tenuta della squadra, da quello che riuscirà a fare Montella. E da questo punto di vista come dici tu, è una dichiarazione trasparente, perché non promette la luna nel pozzo, ma il problema è che tutte le critiche e tutti i come dire, i commenti, i giudizi pelosi, a cominciare dall'area d'amico per finire al sindaco Sala, discendono tutti da questo scenario, da questa situazione. Sì, che è il cosiddetto piano B. Allora, noi ci fermiamo, io ringrazio Franco Ordine che va a San Siro per Milan-Cagliari. 20:45 ci sarà tutto il resto del programma. 41esimo Torino-Sassuolo 0-0, adesso Sassuolo piano piano si sta alzando. L'appuntamento con noi è domani alle 14 con tutti i convocati. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Fresani e Gianmarco Ferronato, che si sono alternati in regia. Tutti i convocati weekend torna domenica regolarmente alle 17, sarà il giorno dopo Spagna-Italia, Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!